Noi abbiamo passato un periodo anche piuttosto lungo in cui, visti i risultati che avevamo ottenuto, abbiamo pensato di aspettare qualche gesto concreto da parte dell'amministrazione che ci permettesse di sperare in bene rispetto al destino dei boschi, dei prati di Caprara. In realtà i segnali ne abbiamo ricevuti però negativi e quindi ci siamo un po' preoccupati e pensiamo che valga la pena di tornare a far vedere che esiste un problema oltre che questa grandissima risorsa. Nel comunicato voi ricordate anche che la vostra battaglia per la salvaguardia dei prati di Caprara è diventata anche parte del programma elettorale dell'attuale giunta, però negli ultimi tempi i gestori dell'area si sono rifatti vivi. I gestori dell'area si sono rifatti vivi e hanno presentato una proposta secondo noi irricevibile, per cui si sono fatti vivi ma nella maniera sbagliata che fanno solitamente, perché non si può proporre una quantità enorme di edificazioni in una zona che secondo noi appunto è una grande risorsa per la città di Bologna sotto molteplici punti di vista. Qual è il quadrante su cui vorrebbero costruire? Noi li chiamiamo Prati Ovest, è della zona dove ci sono ancora decine di migliaia di metri cubi abbandonati che però non arrivano neanche lontanamente alla quantità che hanno chiesto loro. Noi abbiamo sempre detto lì c'è un esistente, nella peggiore delle ipotesi usate quello. Tieni conto che si tratta di quasi 150.000 metri cubi, non è uno scherzo, capito? Invece loro ne hanno chiesti una quantità infernale di più. Quindi siccome noi cerchiamo non di mediare, ma di capire se e come si può aiutare il comune, aiutare la città a diventare proprietaria di queste aree, se c'è bisogno di un minimissimo di mediazione eravamo disposti a dare il nostro parere, però con queste condizioni, a queste condizioni direi proprio di no. Un'altra cosa che chiedete nel comunicato è che se ci sono appunto delle trattative vengano rese pubbliche. Ma sì, perché intanto non sappiamo se ci sono trattative, lo possiamo ipotizzare visto che c'è stata questa partenza iniziale così storta, però non ne sappiamo assolutamente niente, non sappiamo cosa voglia fare Invimit, che peraltro è sempre interessato da cambi di presidenza e quindi suppongo cambi di strategie. Noi siamo un po' in imbarazzo, diciamo. Tieni conto che 2 ettari dei prati di Caprara Est sono diventati proprietà comunale e noi su quello avevamo chiesto, come diciamo nel volantino, un patto di collaborazione col comune, ai fini cioè di mantenere noi, stare dietro quest'area, mantenerla, lavorarci un po' dietro e ridarla progressivamente ai cittadini di Bologna che già in buon numero frequentano a loro rischio e pericolo i prati, portandoci cani, andandoci a correre, andando in bicicletta, che è una bellissima cosa questa area protezione strisciante, però non è legale, capito? Perché adesso noi siamo in questa situazione che infrangiamo continuamente un articolo del codice di procedura penale invadendo un'area privata, che non è privata, poi è pubblica, ma loro insistono a dire che è privata. Insomma, il vostro obiettivo comunque è quello di avere un unico grande bosco urbano senza divisione di quadranti, ma salvaguardando tutto. Certo, come è sempre stato del resto. Quindi speriamo che il comune la acquisisca, torni a essere quello che è sempre stato, cioè una risorsa pubblica, e che ci si smette di speculare sopra con la storia di dare un contributo al deficit italiano, capito?